Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'America Latina era sì il paese della rivoluzione, ma non la mia. Io ero qui, nel centro di quel continente che mi aveva fatto sognare per anni, scoprendo che quel sogno non era realizzabile. Ciao, mi chiamo Roberto Arcero, sono originario della provincia di Caserta di Capua, vivo da circa 6 anni a Bologna, mi sono laureato lo scorso novembre in archeologia, sono andato, ho fatto un tirocinio all'estero all'Istituto di Cultura Italiana ed ora sono in cerca di lavoro. Per 43 anni della mia vita cosciente sono rimasto un rivoluzionario. Per 42 ho lottato sotto la bandiera del marxismo. Se dovessi ricominciare tutto da principio, cercherei naturalmente di evitare questo o quell'errore, ma il corso della mia vita resterebbe sostanzialmente immutato. Morirò da rivoluzionario proletario, da marxista, da materialista dialettico e quindi da ateo inconciliabile. La mia fede nell'avvenire del genere umano non è meno ardente, anzi è ancora più salda che nei miei giorni della giovinezza. Ora Natasha si è appena avvicinata alla finestra che dà sul cortile e l'ha aperta in modo che l'aria entri più liberamente nella mia stanza. Posso vedere la lucida striscia verde dell'erba ai piedi del muro e il limpido cielo azzurro al di sopra del muro e sole dappertutto. La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore. Lev Trotsky, 27 febbraio 1940. Che bello sarebbe se riuscissi finalmente a girare quel film musicale, gli anni 50. A sinistra tutti per Stalin, però c'è un pasticcere, trotskista, isolato, calunniato, che solo nel suo laboratorio, tra le sue paste e le sue torte, è felice e dimentica e balla. Puntata tutta rivoluzionaria e trotskista, direi quasi, quella di oggi, grazie a Roberto che ci ha mandato la sua storia, la storia di una rivoluzione, come l'ha chiamata lui, non mia, una sorta di risveglio da un sogno in cui lui si era autoimmerso e da cui è uscito andando direttamente in quei luoghi. Il tutto oggi, giovedì 28 di giugno 2012, penultima puntata in diretta di questo programma, domani l'ultima e poi per tutto il mese di luglio il meglio di voi siete qui, non una ma due storie al giorno tratte dai racconti che sono arrivati durante tutta la stagione. Voi intanto non mollate, continuate a prendervi mezz'ora, un'ora di tempo, due ore, prendetevi il tempo che volete, prendete una penna e un blocco oppure un computer o scrivete sulla roccia, ma inviatelo a voi siete qui, @radio24.it, la vostra storia, un racconto di una pagina che racconti qualcosa di voi. Il tutto entro, diciamo, non c'è un entro, però se lo fate quest'estate è meglio, perché arrivano i racconti, Margherita ce li stampa con la solerzia di cui solo lei è capace, io e Bonini ce li portiamo al mare, andare al mare Bonini, Bonini, dall'altra parte del vetro, Tiziano Bonini o quel che resta di Tiziano Bonini, insomma ce li leggiamo e l'anno prossimo continuiamo a raccontare le vostre storie. Oggi invece si parla, grazie a Roberto, di una rivoluzione che... di un risveglio da un'idea di rivoluzione, chiamiamola così. Però si parla, grazie a lui, della vostra rivoluzione, qualsiasi essa sia stata. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Vi faccio un esempio. La mia rivoluzione, Valentina scrive, la mia rivoluzione è tuttora in atto e lo è costantemente. Si tratta di insegnare musica ai bambini da 0 anni e dimostrare ogni volta che si può fare e che si può fare bene e che funziona, che i bambini fanno delle cose fantastiche piangendo nelle tonalità delle canzoni che vengono loro proposte, e dirlo, ridirlo e filmarlo e fotografarlo, perché un giorno qualcuno gli darà la rilevanza che merita, e non solo a parole, anche in Italia. Valentina, dici qualcosa di più, cos'è, una tecnica, è un metodo, com'è quel metodo giapponese per insegnare la musica? Suzuki, c'è un metodo che si chiama Suzuki? Sto a far ridere, ma sembra il metodo Kawasaki, invece no, proprio il metodo Suzuki. È un metodo strano giapponese per insegnarti la musica, non me lo ricordo. Se qualcuno lo sa, 349-238-6666. Se non lo sapete, anche niente, lasciate stare. No, però mi fa ridere questa roba che i bambini si mettono a piangere con la tonalità delle canzoni. e magari è un modo per continuare a farli piangere senza preoccuparsi troppo. Marco, la rivoluzione, la mia prima rivoluzione a partire a 17 anni dal Monferrato all'America, tutta l'America. Sembra la storia di Roberto. Sì, sembra pavese perché certo parte dal Piemonte, però Roberto proprio a 17 anni è andato in Centro America e ve lo racconto meglio dopo. Marco invece è tutta l'America, dall'estremo nord al profondo sud, fino alla Terra del Fuoco, e proprio in America rivoluzioni di diverso tipo, le ho viste e vissute, attraversate in Nicaragua, Colombia e Venezuela. E poi ancora, Mariangela, la mia rivoluzione è stata copernicana, il problema ero io, non gli altri. 349-238-6666, si parla di rivoluzioni, qualsiasi esse siano state, se le avete vissute, se le avete viste da lontano, e se magari così vi siete risvegliati da una forma di incantamento e avete scoperto che forse quella rivoluzione, come è il caso di Roberto, non era la vostra. Per la penultima volta in diretta oggi, giovedì 28 di giugno, si parla di rivoluzione. Atterrando all'aeroporto Tegucigalpa si ha la sensazione di entrare dentro la città. I palazzi sono terribilmente vicino alla pista. Si ha proprio la sensazione di arrivare dritti nel cuore dell'America centrale. Avevo all'epoca 17 anni, non che ora ne abbia molti di più, ma pensando a quegli istanti in cui i miei occhi vedevano per la prima volta il verde rigoglioso delle montagne che circondano la città, provai un senso di lontananza, come quando si è da poco in una nuova città e si ha la sensazione di esserci da tanto. Scendendo dalla scaletta, il calore si scontrò contro il mio corpo che reagì, aprendo i pori della pelle e cominciando a sudare. In poco tempo la mia camicia grigia aveva già grosse chiazze di sudore. Il primo prezzo da pagare per essere qui, pensai, senza sapere che il prezzo sarebbe stato molto più alto. Ero stato catapultato dall'Italia in questo piccolo paesino centroamericano per fare un intercambio di studio. Sarei dovuto rimanere un anno e l'idea mi eccitava. La mia curiosità per il continente americano era nata leggendo Sepúlveda, Amado, ma prima di tutto leggendo e documentandomi su un personaggio che forse più di tutti incarna il continente. Ernesto Che Guevara. La mia passione per il Centro America nasce sostanzialmente dalla letteratura, quindi leggendo libri. Il primo libro che lessi si chiamava Patagon Express di Luis Sepúlveda, e da quel libro là mi sono innamorato dell'America Latina fino a poi a riuscirci ad andare all'età di 17 anni. Il mio primo incontro con il comandante fu in una piccola biblioteca in un paesino d'Abruzzo, di cui non ricordo il nome. Avevo più o meno 11 anni, quando alzando gli occhi vidi la copertina grigia e nera di un volume corpulento dal titolo Compañeros, accompagnata dalla foto di un uomo barbuto col sigaro in bocca, messo di traverso, con l'aria di chissà che cosa vuole. Lo afferrai e cominciai a leggerlo. Confesso che non capii poi molto di chi realmente fosse quest'uomo barbuto, ma la foto sì, la foto, quella mi aveva colpito. Cercai di documentarmi meglio con l'enciclopedia che mia mamma aveva a casa. Passai le successive estati a leggere tutto di lui, i suoi scritti, le sue biografie, i suoi racconti di viaggio. E il giorno della mia partenza da Roma all'età di 17 anni, la mia visione del continente sudamericano era chiara, netta, limpida. Non avevo dubbi su chi e che cosa avrei incontrato scendendo da quell'aereo. All'uscita dall'aeroporto il caldo avvolgeva me e i miei compagni di avventura. Ricordo perfettamente la prima scena che mi apparve davanti agli occhi quando le porte dell'uscita si aprirono. Dei bambini con magliette stracciate, senza scarpe, giocavano con una palla in una parte del piccolo parcheggio, mentre un vecchio signore, con passo claudicante, avanzava con un piccolo triciclo, col quale vendeva gelati monogusto. Davanti a me, invece, una grossa macchina americana, nera, con le quattro frecce accese, mi aspettava. Il contrasto tra noi e ciò che mi circondava mi dava solo un assaggio di ciò che avrei potuto vedere. Sfrecciando di fianco al mio venditore di gelati, il pensiero di quell'uomo barbuto si faceva sempre più insistente. Guardare da quel finestrino era per me come leggere uno dei miei libri. Era come essere catapultati nel parco del Serengeti in Tanzania dopo aver visto per decine di sere Super Quark. Il mio però era un super quark della miseria umana. Mi sentivo come Dante nell'inferno e l'autista, un signore sulla quarantina, ben vestito, ci traghettava con la sua Dodge nera. Rock. Andammo a mangiare in uno di quei fast food americani, di quelli di cui ce ne sono a decine nei centri commerciali. Io, a dire il vero, avrei preferito qualcosa di locale, ma il fast food era considerato di gran lunga superiore alle balidas, una tortilla con fagioli preparata e venduta per strada. Nei giorni che seguirono ebbi modo di acclimatarmi, sedermi e cominciare a pensare. Il mondo che avevo davanti a me, quello che circondava il mio isolato al di là del filo elettrico che circondava la mia casa, era diverso. Diverso da ciò che la mia mente aveva creato, aveva costruito. Per me era come vedere un film tratto da un libro già letto e non riconoscere le ambientazioni, i personaggi, la storia. Tutto cambiava e tutto sarebbe cambiato nel mio modo di vedere me stesso e ciò che mi circondava. La mia fantasia si scontrava con la realtà. L'America Latina era sì il paese della rivoluzione, ma non la mia. E io ero qui, nel centro di quel continente che mi aveva fatto sognare per anni, scoprendo che quel sogno non era realizzabile. Ovunque il mito americano era imperante. Tutti avevano un parente o un amico che viveva, in forma clandestina o meno, negli Stati Uniti. Tutti sognavano prima o poi di poter indossare il cappellino con la scritta New York, NY, ed esibire la green card. Quando in un locale della periferia di San Pedro Sula dissi a un signore occhialuto con la maglietta Yankee a strisce gialle e l'immancabile cappellino con il logo della Grande Mela, quando gli dissi che beh, sì, io ero comunista, mi guardò sorpreso, perplesso. Non riusciva a capire per quale diavolo di motivo potesse piacermi una società dove guadagnare più del vicino era non solo impossibile, ma proibito. Sì, la mia idea di rivoluzione era stata tradita. Loro mi avevano tradito. L'intero continente acquistava ormai un altro volto. La vita mi stava dando una severa lezione. Una società plasmata a mia somiglianza, creata ad hoc dalle pagine dei miei libri, che pur raccontandomi la verità, non riuscivano però a dirmi tutto, a descrivermi le mille sfaccettature dell'animo umano, le decine di colori che di volta in volta questo popolo poteva avere. Tutto era stato creato ed impacchettato dalla mia fantasia, e ora che il regalo era stato scartato, mi accorgevo che dentro non c'era quello che mi era stato promesso. Nell'anno in cui poi sono stato lì, capì piano piano che la situazione era completamente diversa, che c'era questo mito dell'America e il mio mito della rivoluzione era un po' diverso ed era fatto semplicemente attraverso la mia letteratura, e che in realtà lì la realtà vera era diversa, le persone stavano in una situazione molto disagiata. E ora che sono qui, a Stoccolma, a 10 anni di distanza, in un bar al caldo di un caffè, e vedere passeggiare in una gelida domenica di gennaio gente disincantata che, uscendo dai negozi, si avvia frettolosamente al primo ingresso della metropolitana, beh, penso a quanto mi ero sbagliato, a quanto mi ero illuso. Un errore di calcolo, avrebbe detto il mio prof di matematica, ma l'errore questa volta era alla radice. Avevo fatto teoria la mia idea di giustizia sociale, di felicità, e cercavo di applicarla a un continente che forse per la sua storia e il suo passato più di tutti faceva il mio caso. E l'America, così vicina e così lontana, dava loro la possibilità di sognare. Solo ora che sono qui riesco a capire e percepire le linee di quel sogno che aveva spinto mio nonno ad emigrare per tornare poi dopo molti anni. Solo adesso che sono qui a nord del mondo e riesco a guardare l'Europa dall'alto in basso, forse sono riuscito a guardare anche me dall'alto in basso e capire meglio. Sì, lo so, mi è costato molto. Ho dovuto disfare un castello di sogni e costruirne uno più piccolo, ma di mura solide. Mi ha costato molto, ma ce l'ho fatta. E ora sono qui a raccontarlo. La rivoluzione non se te limiterà. Giuseppe da Piacenza scrive al 349-238-6666: la rivoluzione è un incidente indispensabile nella costruzione del senso di libertà e giustizia dell'uomo. Wow! Poi c'è qualcuno invece che è contro la rivoluzione, ma d'altra parte noi oggi raccontiamo la storia è quella di Roberto. E Roberto, prima di chiamarlo in causa, anche se so che sta spendendo anche lui, vero? Perché è all'estero, benissimo. Aspetta un attimo Roberto, stai lì, tanto saranno 10 centesimi al minuto. Avevo fatto teoria la mia idea di giustizia sociale e di felicità e cercavo di applicarla a un continente che forse per la sua storia e il suo passato, più di tutti, faceva il caso mio. Pronto Roberto? Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene. Senti, hai voglia di ampliarmi un po' queste due righe che mi hai scritto, che sono azzeccatissime, no? Il fatto di... cioè, che hai avuto la lucidità per capire che ti eri fatto un viaggio in testa, avevi trovato un posto nel mondo che sembrava avvicinarsi e l'avevi eletto a luogo d'elezione. E poi ci sei arrivato. Sì, poi ci sono arrivato e ho capito che le cose erano un po' diverse. All'inizio la delusione è stata tanta e poi piano piano la vera rivoluzione è stata la mia, cioè quella di cambiare la mia idea e cercare di capirli, quindi di avvicinarmi a loro. Sono paesi poverissimi e hanno un paese ricchissimo che è vicino a loro, che alla fine non odiano ma amano. Amano perché gli dà la forza per continuare e per riuscire ad andare avanti e sperare nel meglio. E quindi la mia rivoluzione, che era un po' diversa, è stata tradita e piano piano però ho cercato di capire io loro e quindi di cambiare me stesso, e alla fine ho capito che la vera rivoluzione è quella interna. Senti, però proprio a questo proposito, perché tu dici mi sono costruito un nuovo sogno un po' più piccolo. Mi dici cosa vuol dire, però in modo pratico, cioè Roberto, in che senso, com'è cambiata la tua vita da quel viaggio ad oggi? Cosa fai? In cosa sei diverso? Ma sono diverso soprattutto anche in quello che penso e in quello che faccio. Ho capito quelle che sono le bellezze della vita e soprattutto anche... La semplicità che la vita ti può dare. Sono paesi dove non c'è molto e quindi alla fine le semplicità vengono dalle piccole cose. Tu che cosa fai Roberto nella vita? Io mi sono laureato a novembre in archeologia e adesso sono in cerca di futuro. Sei in cerca di futuro come archeologo o vale tutto? No, principalmente cerco come archeologo, anche se insomma... Tra l'altro, giustamente mi fa notare che il termine, la definizione di archeologo in cerca di futuro non è niente male. In questo momento, però, lo stai cercando un presente più che altro. Sei in vacanza, giusto? Adesso sono in vacanza, sì. Sei in Corsica? In Corsica, sì. Dove sei esattamente in Corsica? Il Rus, costa nord della Corsica. Isola Rossa? Sì, esatto. Giusto? Ok. Senti, quindi un archeologo come cerca il proprio futuro? Cosa fai? Colloqui, concorsi? Come funziona? Oddio, se vuoi fare l'archeologo, concorsi non proprio. In realtà ci sono delle cooperative, oltre all'università ovviamente, ci sono delle cooperative archeologiche con le quali lavorare e quindi scavare con loro. Senti, ti faccio una domanda delle domande, però semplicemente perché mi è venuto in mente pensando al tuo racconto e poi ti saluto. Qual è la tua rivoluzione, Roberto? Ma la mia rivoluzione, come ti ho detto, io credo che la vera rivoluzione è quella interna, cercare di cambiare se stessi, cercando di migliorare. Io credo che questa sia la vera rivoluzione possibile. Ce l'hai una fidanzata? Sì. Non lo so, perché sembravano non collegate le cose e invece è stata la seconda domanda che mi è venuta da farti dopo quella di prima. Roberto, senti, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro di finire bene le tue vacanze e poi di trovare un lavoro. Se hai voglia di scrivere un'altra storia per il prossimo anno, noi siamo qui e l'indirizzo è sempre quello. Voi siete qui, radio24.it. Va bene. Grazie mille, scusa se ti abbiamo fatto spendere dei soldi dalla Francia, però non avevamo altro metodo. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Adesso, qui vabbè, niente, ognuno scrive la sua sulla rivoluzione, giustamente, chi l'ha fatta, chi l'ha immaginata, chi l'ha solo annusata da qualche parte. Nella foto che ci ha mandato, Roberto, non capisco, mi sono dimenticato di chiederglielo dov'era, perché ci rimarrà questo dubbio. La foto la trovate sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, come al solito. È davanti a una roccaforte, a un castello, insomma, a una fortificazione, sulla cui cima ci sono delle case... Forse è Ibiza questo posto, sai? La città vecchia di Ibiza. Vabbè, ma quello che è interessante è la faccia di Roberto. Roberto ha addosso una maglietta nera con disegnato sopra una specie di pugnale arabo, credo. Sì, perché ci sono delle scritte in arabo, mica peraltro. Ha una bella barbone all'Ernesto Che Guevara, ha dei bei ricci scompigliati in testa, e ha gli occhi chiusissimi dal sole, quindi non si capisce bene che faccia abbia, però ha una faccia simpatica. Sì, se avete voglia andate sul sito di Radio 24 in questo momento preciso, alla pagina di Voi Siete Qui, c'è la foto di Roberto. Sono sicuro che qualcuno sa dirmi che posto è questo qua, ma forse in Italia, però niente, non riesco neanche a vedere le targhe di un'automobile. 349-238-6666, se riuscite ad andare subito sul sito e a vedere la foto di Roberto. A proposito del sito, a proposito del fatto che stiamo chiudendo questa stagione di Voi Siete Qui, cominciando poi da lunedì prossimo e per tutto il mese di luglio con il meglio di, come vi dicevo prima, visto che per tutto l'anno e per l'anno prossimo vi racconterò le vostre storie, quelle che mandate voi, abbiamo deciso insieme a tutta la redazione di chiudere domani sera, o meglio domani notte, dopo il programma. Chiudiamo il programma alle 16.45, come al solito, e poi domani notte, esattamente alle 23, in diretta, solo in streaming però, sul sito di Radio 24. Quindi dovete avere davanti un computer, andare sul sito non si dice più www, vero? Perché basta mettere Radio 24, www.radio24.it, e c'è un canale che è sempre acceso in streaming, è quello su cui vedete in streaming in sostanza il video, in video streaming, certo mi ricorda Paolino, quindi saremo anche visibili, è quello su cui vedete la zanzara sostanzialmente. Sullo stesso canale alle ore 11 di domani sera vi racconterò una storia diversa da quella che mi avete mandato tutti i giorni. È una storia mia, un po' mia, un po' no, però che ho scritto qualche tempo fa e che vi racconto domani sera, più o meno in un'ora di notturna, solo sul sito di Radio 24, vi ricordo, radio24.it. Invece torniamo alle rivoluzioni, perché qui appunto giustamente ognuno dice la sua, come è giusto che sia. Allora, Filippo da Lucca: in questo mondo di diversi l'unico modo per essere rivoluzionari è essere normali. Questa me l'aspettavo che arrivasse ed è arrivata. Un po' hai ragione e un po' no, Filippo. Secondo me, ovviamente, non in maniera assoluta. La rivoluzione è un incidente indispensabile nella costruzione del senso di libertà. Questa l'abbiamo già letta. Poi ce n'è uno in spagnolo, di Paolo da Perugia, che scrive: il centro della rivoluzione sta solo in L'Avana. E poi ancora: basta rivoluzioni e cominciare una re... Ah, non è un problema del T9 questo, proprio. E cominciare una rivoluzione. Smetterla di resistere e cominciare a esistere. Andrea da Treviso. E poi ancora Giampaolo: la rivoluzione è vivere felici di quello che noi siamo, senza invidie e a cuor sereno. 349-238-6666. Sì, è vero, un po' cambiare tutto per non cambiare niente, che era Tomasi di Lampedusa, giusto? E poi credo che la stessa Valentina, che mi parlava sul profilo Facebook del programma Voi Siete Qui Radio 24, mi parlava di questo metodo con cui insegna musica ai bambini a 0 anni, non so se è lei che mi ha scritto. Ah no, no, no, no, no, eccolo qua: Salvatore, maestro di canto per bambini e ragazzi, mi scrive: è un metodo impegnativo soprattutto per i genitori, sono coinvolti nell'apprendimento, praticamente si comincia subito a suonare insieme, è essenziale che vi sia un numero sufficiente di allievi che formeranno una piccola orchestra, anche per l'insegnante non è uno scherzo, deve possedere notevoli capacità musicali e sapere fare con gruppi di bambini e saperci fare con gruppi di bambini, per la maggior parte è pratica impensabile. Per la maggior parte chi? Per la maggior parte degli insegnanti. Sì, però non mi avete spiegato com'è questo metodo che è così rivoluzionario, che insegna musica, per cui i bambini... Questa roba dei bambini che piangono con la melodia mi è rimasta abbastanza impressa. Andiamo avanti. Voglio leggervi, solo perché appunto è arrivato il racconto di Roberto, e solo perché è un libro molto interessante. È un libro che si chiama Senza perdere la tenerezza. L'ha scritto questo scrittore messicano che si chiama Paco Ignacio Taibo II, che ha scritto diversi libri, alcuni gialli, insomma ha scritto diverse cose. Tra le altre ha scritto questo libro che si chiama Senza perdere la tenerezza, che è una biografia di Ernesto Che Guevara, romanzata. È molto bella perché di fatto è un libro in tutto e per tutto, e il titolo è peraltro una citazione di Che Guevara, che diceva, non mi ricordo più bene la frase, però so che bisogna essere duri senza perdere la tenerezza, forse. Vabbè, insomma, chiunque se la ricordi, siamo sempre qua. 349-238-6666. Questo pezzo che vi leggo è, diciamo, l'atto finale della rivoluzione cubana vissuta da Che Guevara e da Fidel Castro. Atto finale che si conclude proprio con il saluto di Ernesto Che Guevara, che parte e invia questa lettera a Fidel Castro. Caro Fidel, mi ricordo in quest'ora di molte cose. Di quando ti conobbi in casa di Maria Antonia. Di quando mi proponesti di venire e di tutta la tensione dei preparativi. Un giorno passarono a chiedere chi si sarebbe dovuto avvisare in caso di morte. E la possibilità reale che questo accadesse ci colpì tutti. Poi scoprimmo che era vero. Che in una rivoluzione, se è una vera rivoluzione, si trionfa o si muore. E molti compagni sono caduti lungo la strada verso la vittoria. Oggi tutto ha toni meno drammatici perché siamo diventati più maturi. Ma il fatto si ripete. Sento di avere compiuto la parte di dovere che mi legava alla rivoluzione cubana sul suo territorio e mi congedo da te, dai compagni e dal tuo popolo che ormai è il mio. Ho vissuto giorni magnifici e al tuo fianco ho provato l'orgoglio di appartenere al nostro popolo nei giorni luminosi e tristi della crisi dei Caraibi. Poche volte, come in quei giorni, uno statista ha brillato tanto. Sono anche orgoglioso di avere seguito senza esitazioni, identificandomi con il tuo modo di pensare, di vedere e di valutare i pericoli e i principi. Altre terre del mondo reclamano il contributo dei miei modesti sforzi. Io posso fare ciò che a te è negato dalle tue responsabilità alla direzione di Cuba. E quindi è giunto il momento di separarci. Ripeto ancora una volta che sollevo Cuba da ogni responsabilità, tranne quella del suo esempio. Se la mia ora giungerà sotto altri cieli, il mio ultimo pensiero sarà per questo popolo e per te. Vi leggo gli ultimi messaggi che parlano di rivoluzione, che sono proprio opposti. Uno è di Jacopo che dice la rivoluzione è obbligatoria, l'altro è di Nicola che invece dice rivoluzione mai, solo evoluzione. Vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata in diretta di Voi Siete Qui. Vi ricordo che la puntata di oggi parlava della storia di Roberto, che era la rivoluzione. Quella di domani invece è l'ultima puntata e parla di inizio e di fine. Io sono il candidato numero 134 e quello che stanno esaminando in questo momento è il numero 35. Sono nei guai. Sono nei guai perché ora mi sono pentito di essere qui. Perché non posso andarmene, visto che Chiara sta arrivando. E soprattutto perché ho assolutamente bisogno di un bagno.